Per niente stanco d'essere lucido, umano, troppo umano, circospetto e logico. E mi rivesto delle mie parole, e il tuo silenzio quasi mi commuove. Sì, ma perché il cuore è poco intelligente, ne avrei da dire ma non dico niente. Sei già un passo da me. Vorresti dirmi che mi inganno se mi sento libero, illuso, e che l'amore mette il cuore in trappola. Sarà un miraggio vecchio come il mondo, a galleggiare e poi lasciarsi andare a fondo. Non è poi così indecente, e ragionare meglio a luci spente. Se ad un passo da me. E poi, e poi, e poi, e poi. E poi ti fermi, ritratti, riaccendi una nuova teoria. Non ne posso più. E faccio finta di capire, e faccio finta di dormire. Mio Dio che noia, ho bisogno di un drink che mi tiri su. Ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani che resti e ti allontani, di carne, di senso, ragione e sentimento. Guarda il mio cuore è unico, unico, non come fosse solo un caso clinico. Lascia che il sole sciolga un poco il gelo e che riscaldi un po' il mio cuore sotto zero. Fermo dietro la tua lente e ti ripeto calma, sii paziente, sei già un passo da me. Amica mia, non negherei che in pratica ci siamo. L'amore è solo una questione chimica, un espediente dell'evoluzione, un compromesso fra il dovere e la passione. Certo sei così attraente, il tuo profumo annebbia la mia mente. Sei ad un passo da me. E poi, e poi, e poi, e poi. Poi d'un tratto t'arrendi, sorridi, mi senti, oddio non ci speravo più. Non c'è più niente da capire, non c'è più niente da chiarire. Spengo la luce, restiamo in silenzio, ti sfioro e tu. Ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani che resti e ti allontani, di carne, di senso, ragione e sentimento di te. Se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no. Io di te, dei tuoi silenzi, anche dei tuoi giorni stanchi, di carne, c'è da capire, mi fai bene. Ma cosa c'è da capire, mi fai bene. Ma cosa c'è da capire? Le tue mani che resti e ti allontani, di carne, di senso, ragione, sentimento di te. Se no non riesco a dormire, mi fai bene anche se dici di no. Io di te, dei tuoi silenzi, anche dei tuoi piedi stanchi, di carne, di senso, ragione, sentimento di te. Ma cosa c'è da capire, mi fai bene.